Capitolo quarto. Credere nei libri. La fede nella provenienza divina dei libri indicati nel sublime Corano, come libri fatti scendere da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, è il terzo articolo del credo islamico. Nel sublime Corano, che è l'ultima rivelazione divina, sono indicati i nomi dei libri, le cosiddette sacre scritture, che contenevano i testi originali delle rivelazioni che hanno preceduto quella del sublime Corano. Essi sono Suhuf, fogli, Torah, legge, Zubur, salmi, Injil, Evangelo. Per quanto riguarda il testo scritto della rivelazione denominata Suhuf Ibrahim, c'è da dire che ne sono state del tutto perdute le tracce documentali, a eccezione del frammento di essi che viene fatta nel sublime Corano, Sura dell'Altissimo. Per quanto riguarda Torah, Salmi ed Evangelo, c'è da dire che ci sono dei documenti scritti, correnti sotto i nomi dei libri di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, il testo di ciascuno dei quali, però, non è quello della rivelazione omonima, per effetto di manipolazioni, alterazioni, aggiunte e tagli subiti dai testi stessi nel corso dei secoli. La cosa è testimoniata nel sublime Corano da Allah, rifulga lo splendore della sua luce. E chi è testimone più attendibile di Allah l'Altissimo? Per questi motivi la fede islamica nei libri consiste nel credere nella provenienza divina di sacre scritture delle quali è rimasto il nome, ma non il testo originario. Solamente il sublime Corano è quindi fonte di verità religiosa e di regole di condotta di certa, sicura e indubitabile provenienza divina. La certezza di ciò riposa sulla parola di Allah l'Altissimo, il quale ha garantito che il testo della rivelazione coranica sarà da lui stesso custodito nella sua letteralità, sicché non saranno possibili adulterazioni. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel sublime Corano: il ricordo, cioè il Corano, l'abbiamo noi fatto scendere, e certamente noi saremo custodi della inalterabilità del suo testo. Tra le rivelazioni pre-coraniche e il sublime Corano c'è una differenza sostanziale. Ciascuna rivelazione precoranica ha avuto per suoi destinatari gli uomini appartenenti a un popolo stanziato su un territorio determinato in un preciso momento storico. I comandamenti contenuti in quelle rivelazioni erano obbligatori solo per i loro destinatari e per la loro discendenza. Il sublime Corano ha per suoi destinatari tutti gli uomini della terra e per tutti i tempi successivi alla sua rivelazione. Pertanto, i precetti del sublime Corano sono obbligatori per tutta l'umanità. Allah rifulga lo splendore della sua luce con il sublime Corano, testo di insegnamento eterno e codice di vita definitivo, dichiara fuorviamente ogni credenza e ogni pratica religiosa diversa dall'Islam. Il profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, ha detto: chiunque cerchi la guida altrove, cioè fuori dal testo coranico, sarà fuorviato da Allah.